a Dax e a due compagni antifascisti insieme a lui, e gli avvenimenti successivi dell'ospedale e del pronto soccorso del San Paolo. Prima però di andare a raccontare un po' la vicenda in sé, vorremmo un attimo spiegare perché reputiamo giusto parlare ancora dopo 18 anni di questa vicenda. Ovviamente nella nostra ottica, il nostro fine, oltre sicuramente a quello di non perdere il ricordo di Dax, anche perché no, fine a se stesso per ricordare un compagno, ma l'importante per noi è invece la memoria, che invece è, come si dice spesso, un ingranaggio collettivo e quindi deve essere patrimonio ed elaborazione comune. Questo perché la memoria anche in memoria dei simboli, dei significati, e infatti il nostro ciclo di puntate era il nome del nostro ciclo di puntate era proprio Nuovi significati per l'antifascismo, e diciamo che oggi vuole essere un po' la puntata a coronamento di tutto ciò. Perché? Perché noi ricordando Dax non ricordiamo solo la persona, solo l'essere umano che per l'appunto è stato aggredito ed è tragicamente morto in seguito a questa aggressione, ma noi ricordiamo anche le idee, i valori, e le idee sono a prova di coltello, le idee non vengono uccise così facilmente, ed è per questo che per noi è importante la memoria. Deve essere quindi un avanzamento collettivo, un ricordare un avvenimento delle persone e tutto ciò che concernono questi argomenti, per portare avanti, per spingere quelli che sono delle idee, dei progetti e una progettualità che sia propulsore di un cambiamento radicale. Quindi sotto questo punto di vista, sotto questa lente, la memoria, e nel nostro caso precipuo la memoria di Dax, si va a costituire come un'arma prettamente antifascista e dall'identità antifascista. Noi vogliamo che la memoria di Dax ricordi non solo la vicenda e la persona di Davide, ma faccia comprendere alle persone come il fascismo non è vero che è morto nel 45, perché Dax viene ucciso nel 2003, non nel 45, non negli anni 70. Dax è stato ucciso poco tempo fa, il fascismo quindi ha continuato ad uccidere, il fascismo continua tutt'oggi ad uccidere, e non è che se adotta metodi più subdoli, più sotterranei, uccide di meno o sia meno annichilente. La memoria quindi in questo senso, sotto questa lente di ingrandimento, va a trasformarsi anche come un serbatoio di idee, un serbatoio di elaborazione comune che ci renda più consapevoli di quello che è stato e quindi più pronti ad affrontare quel che sarà. La memoria è quindi semplicemente, ma anche niente di meno, un rafforzare quella che è la nuova resistenza, un rafforzare quelle che sono le nuove idee, una nuova progettualità per un avvenire migliore, che come abbiamo detto in diverse puntate di questo ciclo di incontri, di puntate, deve essere un avvenire più libero, più egualitario, più libero dalle brutture del mondo odierno. Questo quindi è un po' il filo conduttore, la memoria come arma antifascista e l'importanza della memoria per il futuro. Perché, come recitava un vecchio murale ormai cancellato, senza memoria non c'è futuro. Questa puntata noi la dedichiamo ad Dax, al suo ricordo, ma soprattutto a un'idea di mondo migliore che dalla memoria di una persona, di alcuni eventi, purtroppo in questo caso anche tragici, possa essere fautore di un nuovo modo di pensare le relazioni alla società. Usare quindi la memoria come arma, e per non dimenticare il passato e per prepararsi al futuro. Allerta, allerta! Antifa, antifa. Yeah. yeah. Signor K, yeah. Plastic Kento, 1-2-1-2, yeah. Questo è rap guerriglia. Questa cosa m'appartiene già da troppo tempo. Chi è del giro sa chi sono, sa che le appartengo. Io continuo a dare molto più di ciò che prendo. Io ci metto la scintilla, poi l'incendio. E ovunque vada sono di casa, ho la matricola brasa. In ogni porto dove ti porto, porto la mia saga. Porto il verbo in strada, non lo tieni a bada. Tra vite da gatti, vite da matti, via da Torquemada. Via da questa grande gabbia di diamanti e oro. Via dall'oro, da Gollum e dal suo tesoro. Via dal coro, canoro, da ciò che deploro. Io che l'ignoro, loro che ignorano quello che adoro. Amo la tribù che balla questo giro tondo. Generazioni di ribelli sopra il mappamondo. Ovunque vado faccio fuoco, gara bombo. Ho una casa per andare in giro per il mondo. Come si dovrebbe, città alta il mio sfondo. Sono uno psico rapper, cittadino del mondo. Cresciuto con dei sani valori e ideali. Coi fratelli e le sorelle dei centri sociali. Coi writers, con i breakers e con i DJ. Manifestazioni, assemblee, picchetti e cortei. La mia gente lotta sempre, 7 giorni a settimana. Magazzino 47 a scatazzuna. Paci Pagiana, Acrovax, Adomu, Lambrete, Cantiere. Leon Cavallo, Forte, Prenestino. In ogni quartiere Genova, C8 e quel fottuto mestiere. Finanzino, poliziotto, di gotto, carabiniere. Mai un passo indietro, con Kento e signor K. Non cediamo manco un metro, col cazzo che si scappa. Un occhio al tuo domani, un presente fra i più tristi. Ieri partigiani, oggi antifascisti. Rap è sample, porto il sud sopra ogni traccia. Parli di carta moneta, ma il tuo testa è carta straccia. Sto con l'ele, signor K, plasta e gira e poi l'accende. Siamo il nuovo tricolore, sì, ma senza bianco e verde. Porto musica e rivolta finché i tempi cambieranno. Sto coi fuochi nella notte dei migranti di Rosarno. Mi concentro sul respiro mentre osservo l'obiettivo. Spezzo il ponte sullo stretto con ogni pezzo che scrivo. Ogni strofa che compongo parla in fondo del reale. Giro il mondo ma mantengo stesso accento dialettale. Rimango militante, brigante, Carmine Croco. La mia gente ormai non piange, la mia gente lotta il doppio. Fratelli ritrovati in mezzo a troppi che si perdono. Non siamo più distanti da Reggio Calabria a Bergamo. Fratelli ritrovati sono bussole e aquiloni. Nella mano della vita busso a coppe da bastoni. Come finisce questo film, maestro? Come finisce... non lo so. Ed eccoci di nuovo qua dopo un piccolo break musicale. Abbiamo ascoltato Antifa Street Video con Kento, Plaste e... porca zozza, signor K, grandissimo signor K. Beh, torniamo al punto della situazione e Norberto continua la sua storia. Dunque, come da premessa, la puntata di oggi è su Dax, quindi appunto adesso vado a narrare il più velocemente possibile, spero di non annoiare, la vicenda di Davide Cesare, partendo appunto dal primo momento della collutazione con i fascisti davanti alla birreria Tipota, passando poi agli scontri successivi della notte al San Paolo. Dunque, innanzitutto, beh, chi era Davide Cesare? Davide Cesare era ragazzo di Rozzano, quindi anche territorialmente nato vicino a noi, militante del comitato per la lotta per la casa e l'ambiente del Ticinese, militante della RASH, che quindi era un gruppo antifascista, anarchico e comunista, ed era militante del centro sociale Orso, l'officina della resistenza sociale che era situato fino al 2005 in via Gola 16. Dax Dax viveva appunto anche in Via Gola, che è sempre stato un quartiere molto particolare qua a Milano. Ovviamente Dax quella sera si trovava al Tipota, una birreria situata all'angolo tra Via Brioschi e Via Zamenhof, che allora, ma direi anche oggi, frequentata per la stragrande maggioranza dal mondo alternativo di sinistra, dai ragazzi di centri sociali a ragazzi facenti parte dei collettivi anarchici, o anche semplicemente a persone che orbitavano intorno a quelle idee, a quelle aree lì. Quindi era appunto un po' il ritrovo della sinistra alternativa milanese. In quel quartiere, in quegli anni, abitavano due ragazzi fratelli che erano abbastanza conosciuti in quartiere per le loro simpatie neofasciste, per la loro nostalgia verso il ventennio, e insomma per le loro simpatie neofasciste. Quella sera questi due ragazzi, che erano fratelli, i fratelli Morbi, sono a passeggio in via Brioschi col proprio cane, un cane lupo, il cui nome è molto particolare e ha un ruolo non secondario in questa vicenda, poiché è appunto un po' il casus belli che dà il là alla colluttazione. Il cane infatti si chiama Rommel. Piccolo inciso, Rommel era la volpe del deserto, lo chiamavano così perché era il gerarca nazista del Terzo Reich, che guidò le truppe del Terzo Reich e dell'Italia fascista nella campagna d'Africa, in particolare per esempio nella battaglia di El Alamein, eccetera. Quindi appunto era uno dei principali gerarchi nazisti e sicuramente il più abile stratega che abbia condotto la campagna estera del Terzo Reich. Quindi con la scusa che il cane era andato un pochino più avanti, i due fratelli richiamano il cane, urlando quindi inevitabilmente il suo nome in questa via, alla presenza, perché appunto erano in questa birreria, di Dax, Davide, e di altri due antifascisti, suoi amici Alex e Fabio, anche loro militanti della Rascia e dell'Orso. Inevitabilmente questo porta prima a un alterco verbale, che però all'inizio si sembra limitarsi a questo. Dopo un po', che appunto la situazione sembra essersi limitata a uno scontro verbale, i due fratelli, vedendo che appunto Dax, Alex e Fabio sono usciti dalla birreria, vanno incontro a questi tre antifascisti insieme. Dax avanza, va avanti rispetto ad Alex e Fabio e gli vengono inferte 13 coltellate. 13 coltellate di cui poi si scoprirà dopo dalle parole dei medici almeno 3 erano già mortali, perché indirizzate al petto all'altezza del cuore e alla gola. Diciamo invece che Alex si piglia qualcosa come 7 coltellate, invece Fabio gli va meglio, se così possiamo dire tra virgolette, e riceve solo 2 fendenti. La situazione, ovviamente i due fratelli neanche a dirlo scappano. Nel frattempo, tra l'altro, mi sono dimenticato di dirlo, però mentre c'era la colluttazione con i coltelli, scende anche il padre dei due fratelli, che appunto li aiuta durante questa colluttazione, visto che erano 2 contro 3. La situazione appare subito gravissima, perché il sangue per terra è veramente una quantità esagerata, quindi da subito la situazione appare drammatica e la persona che fin da subito si capisce che è più grave è proprio Davide Cesare Dax, perché è quello che perde più sangue e soprattutto all'inizio l'unico che perde conoscenza. Poi successivamente anche Alex perderà conoscenza. Subito dopo questa aggressione fascista non sono le ambulanze e i primi soggetti a sopraggiungere sul luogo, bensì è la polizia. Parecchie volanti del vicino commissariato di Via Tabacchi sopraggiungono sul luogo e pensano intelligentemente di parcheggiare le auto in mezzo alla strada, chiudendo così tutte e quattro le vie d'accesso a Vrabioschi, perché essendo un incrocio ci arrivano queste quattro vie. Il risultato è che circa 20 minuti dopo l'accoltellamento, la prima ambulanza che arriva e anche tutte le successive ambulanze che arriveranno devono, i barellieri su queste ambulanze per soccorrere i feriti devono fare lo slalom tra le macchine parcheggiate, perché la polizia, le forze dell'ordine non si spostano con le auto. Questo ritarderà i soccorsi e secondo le testimonianze poi successive di alcuni medici e alcuni infermieri, non è detto, non è sicuro che Dax poteva salvarsi, ma c'erano delle possibilità in più. Dax avrebbe potuto sopravvivere all'aggressione se non ci fossero stati questi ritardi nei soccorsi. Ovviamente, vista la gravità delle sue ferite, non era sicuro, però c'era una possibilità in più. Quindi la situazione è questa. Nel frattempo, ovviamente, tutti i solidali compagni dell'Orso, ma anche di tante altre realtà, accorrono alla birreria Tipota, e sostanzialmente avviene un piccolo episodio che però, nel suo essere semplice e anche abbastanza banale, è molto significativo per gli avvenimenti successivi. Mentre sono lì qualche decina, ma poche, un 20-30 persone accorse per capire la situazione, e mentre queste persone sono intorno a svariate volanti, pattuglie della Polizia di Stato, sopraggiunge una camionetta di agenti in tenuta antisommossa, i cui agenti scendono come pronti per una carica, quindi con in mano lo scudo, il manganello e il casco in testa, fanno qualche passo, avanzano verso i compagni solidali accorsi, respinti dalle urla principalmente di disperazione e di rabbia delle persone lì presenti, risalgono sulla camionetta che parte a tutta velocità e se ne va via. Questo sarà importante per gli avvenimenti successivi del pronto soccorso dell'ospedale San Paolo. Quindi nel frattempo cominciano ad arrivare le persone, qui siamo intorno alla mezzanotte, tra il 16 e il 17 marzo 2003. Nel frattempo continuano ad arrivare i compagni e la gente si divide nelle macchine e comincia ad andare all'ospedale San Paolo, perché pensavano che fossero tutti all'ospedale San Paolo. In realtà poi si scoprirà che Alex è stato portato al policlinico. Quindi le persone cominciano ad andare verso San Paolo in diverse macchine, e le prime persone che arrivano a San Paolo riescono ad entrare a pronto soccorso, ma vengono sostanzialmente chiuse dentro dai poliziotti e dai carabinieri sopraggiunti in assetto antisommossa, che blindano quindi completamente prima il pronto soccorso e successivamente l'ospedale. E qui gli eventi si devono dividere per forza in due, perché sono i luoghi in cui avviene, se volete, la tragedia nella tragedia: il pronto soccorso e l'entrata principale del San Paolo. Dunque, nel pronto soccorso, poi si leggerà anche nei verbali, negli stralci dei processi, erano appunto arrivate delle persone, tra cui peraltro Fabio, uno degli accoltellati, che era ancora cosciente ed era, appunto, mi si passi il termine, quello messo meglio, perché aveva ricevuto solo due coltellate, per dire, una al rene e una alla spalla. È arrivato lì per farsi medicare. Vengono sostanzialmente caricati nella sala d'aspetto del pronto soccorso. Si leggerà poi nei verbali dei processi che addirittura c'era una donna una donna, una badante dell'est, che era lì con il signor anziano a cui faceva da badante, che verrà picchiata anche lei. E ovviamente lei davanti ai giudici dirà: io ovviamente non sono dei centri sociali, non sono anarchica, non so nulla di tutto ciò, non c'entro nulla, però io sono stata picchiata da un carabiniere. Questa sarà la sua testimonianza. Ovviamente poi i carabinieri e la polizia non si fermano davanti a nulla, le persone vengono inseguite nei corridoi del reparto di rianimazione, vengono picchiate in sala d'aspetto davanti a tutti. E non solo, ci sarà poi un particolare che farà passare quell'evento sotto il nome della Diaz di Milano, riecheggiando l'irruzione della polizia nella scuola Diaz durante le giornate del G8 di Genova 2001, che è sostanzialmente il momento in cui alcuni poliziotti e carabinieri minacciano gli infermieri, i medici e il personale sanitario lì presente, per far ripulire al più presto, immediatamente, l'enorme chiazza di sangue che si era venuta a creare nella sala d'aspetto del pronto soccorso in seguito ai pestaggi. Questo per l'appunto riprenderà poi il famoso motto "Don't clean up this blood", non pulite questo sangue, già utilizzato nelle giornate di Genova. E niente, quindi sarà una cosa che colpirà molto l'immaginario, giustamente, collettivo. Questo è quello che succede al pronto soccorso. Ovviamente non mi dilungo troppo in dettaglio sui pestaggi, ma le testimonianze sono di persone che vengono, per esempio un compagno dell'orso verrà ammanettato a un calorifero e picchiato con una mazza da baseball, che ritornerà anche dopo. Mazza da baseball, peraltro, che spero di non essere smentito, non è in dotazione alla polizia di Stato, che io sappia. Non ancora. Qualcuno lo vorrebbe magari, ma non ancora. E quindi sostanzialmente ci spostiamo davanti all'ingresso principale. Dunque, l'entrata principale del San Paolo è sostanzialmente una salita larga, perché è fatta anche per le macchine. Quella salita lì, in quel momento, alcuni compagni primissimi arrivati all'ospedale, tra cui c'è uno dei migliori amici di Dax, che sarà il primo a ricevere la notizia dell'avvenuta morte di Dax, avvenuta appunto durante il trasporto in ospedale. Ovviamente quei pochi che erano lì davanti, si tratta di uno sparuto gruppo di persone, 5-10 persone massimo, appresa la notizia, è colta da un momento di disperazione, ovviamente. Cosa succede? Prima dell'arrivo di altri solidali e di altri compagni, arrivano le forze dell'ordine, stavolta appunto in tenuta antisommossa, ed eseguono una prima carica a freddo su queste persone qua. Ovviamente nello scappare si entra dentro l'ospedale e l'ospedale infatti poi risulterà devastato completamente. Ci sono sedie rotte, vetri infranti, sangue sulle pareti, per terra, sui vetri, dappertutto. Quindi sostanzialmente avviene questa prima carica, le persone vengono picchiate dentro e fuori l'ospedale e la polizia sostanzialmente va a cinturare l'entrata principale del San Paolo. Quindi in pratica arrivano poi col passare dei minuti, accorrono svariati solidali, compagni, compagne, eccetera, e la polizia, quando sono circa presenti lì 50 persone, esegue una seconda carica dalla cima fino alla fine, per tutta quindi la salita del San Paolo, una seconda carica a freddo sulle persone. Questa volta la carica è particolarmente violenta e ci sono appunto testimonianze di persone a cui vengono spaccati tutti i denti perché presa a calci in faccia per terra, e una cosa molto, mi verrebbe da dire, particolare, ma ne abbiamo sentite parecchie di queste storie, una caratteristica

chi annaffia e recide, chi si prende tutto e se la ride, succhia il sangue a chi sopravvive. Ma io penso diverso, cammino nel buio, cancello le tracce e non scordo il male subito, mantengo l'attrito, ricordo le facce. Questo tempo che cambia veloce, ha imbellito i profili e domato l'istinto, ma io resto aggrappato al microfono e voce che vola e scavalca il recinto. Ma io penso diverso, cancello di nuovo, cerco quello che non trovo, non ubbidisco, esco dal coro, distruggo e ricostruisco chi sono. Ma io penso diverso, cancello di nuovo, cerco quello che non trovo, non ubbidisco, esco dal coro, distruggo e ricostruisco chi sono. Io combatto sta guerra da solo e adesso ubbidisco solo a me. La prima riflessione che posso fare su, sull'anniversario della morte di Dax è che sono quasi passati 20 anni. Che in politica, ma anche nelle vite di ognuno di noi, in fondo è un'era geologica. Su quella serata posso dirti che un gruppo di noi era a cena in zona, a casa di un amico in zona Maciachini. Fummo avvisati telefonicamente di quello che era successo e mi ricordo che ci fiondammo in due macchine verso Brioschi, percorrendo il tratto di strada in pochissimi minuti, e arrivammo lì e avevano appena portato via Davide in autoambulanza, e la prima cosa che mi ricordo mi saltò all'occhio era la quantità di poliziotti, veramente impressionante già lì. E poi fuori dal tipo, tra questa pozza di sangue che in verità era una sorta di pozzanghera, e quindi già insomma non ce lo si diceva, però insomma l'esito era un po' nell'aria, è una roba che non capita mai di vedere. Ecco, allora praticamente si decide, da quel momento si decide di andare al pronto soccorso del San Paolo, perché sembrava che avessero portato tutti lì feriti. In verità poi Alex l'avevano portato al policlinico e niente, mentre andavamo ci arriva la telefonata di una compagna nostra che era già lì, io all'epoca militavo al deposito Bulk, dicendo che li stavano caricando dentro al pronto soccorso, e noi siamo rimasti sbalorditi, attoniti. Sai quelle notizie che ti dici boh, ma com'è possibile? E poi che Dax era morto. Non mi ricordo l'ordine cronologico, se prima ci telefonarono sul fatto che Davide era morto e poi le cariche, o no, questa cosa non me la ricordo. E niente, noi arrivammo a San Paolo, scendemmo e sostanzialmente c'era questo muro di carabinieri, delle volanti, all'ingresso del vialetto. Quindi avevano già in qualche modo cinturato l'ingresso al pronto soccorso dove stavano facendo la mattanza. C'erano questi carabinieri con l'antiproiettile in mano, avevano gli estensibili d'acciaio, robe così. Niente, non abbiamo fatto in tempo a dire, non so, buongiorno, buonasera, che ci sono saltati addosso e ci hanno menato per qualche secondo. Cioè, insomma, poi lì il tempo si dilata, ma... ci hanno menato abbastanza soldi, noi eravamo in quattro, hanno spezzato, hanno rotto il braccio a un mio compagno, un altro hanno rotto un polso, hanno aperto la testa. Vabbè, complessivamente comunque ci è andato abbastanza bene rispetto a chi era dentro il pronto soccorso. Niente, poi ci hanno ammanettato e io sono capitato in macchina, una macchina dei carabinieri con un compagno più grande, e il problema eravamo ammanettati dietro la schiena e quindi era molto difficile fare qualsiasi cosa, però in due siamo riusciti a fare una telefonata. Un paio di telefonate, anche questa cosa qui non me la ricordo, credo una sicuramente all'avvocato Mazzali, che infatti poi, se non sbaglio, qui purtroppo ho dei vuoti, più un po' lì, e se non sbaglio anche a Daniele Farina, che all'epoca era consigliere comunale per Rifondazione. E niente, praticamente dal nostro comodo osservatorio abbiamo, siamo riusciti a vedere dei poliziotti o dei carabinieri, io credo carabinieri, ma anche qui potrei sbagliarmi, che riponevano nel bagagliaio di una loro volante la famosa mazza da baseball che avevano usato per fare le cariche dentro, dentro il pronto soccorso. Praticamente dopo un po' la, la macchina fa retromarcia, entra nel, nel vialetto del pronto soccorso, e, però la notizia è iniziata a girare, è iniziato ad arrivare un mare di gente fuori dal San Paolo, prima decine, poi, cioè 10, 20, 30, 50, 70, e a un certo punto la Digos ci ha mollato. E mi ricordo, vabbè, le scene patetiche dei poliziotti in divisa che si lamentavano con quelli della Digos, tipo i bambini che si lamentano con la mamma, tipo non è stata colpa nostra, hanno iniziato loro. E io non lo so, un po' in trance, mi sono fatto questo giro nel pronto soccorso e ho dato una mano a un compagno, credo che fosse un compagno dei transiti, non mi ricordo, a cui praticamente mi ha spaccato la faccia, una roba, cioè sostanzialmente gli hanno distrutto il setto nasale a colpi di, poi ho scoperto, di torcia elettrica, quella che usano di notte, e cioè, gli ho dato una mano per appoggiarsi e niente, qua c'era praticamente il pronto soccorso completamente devastato, sangue ovunque. E niente, praticamente a una certa ci siamo levati dal cazzo e siamo andati a farci medicare noi tre feriti di questo gruppo di quattro, accompagnati da alcuni compagni e compagne sempre del Bulk, al pronto soccorso più vicino, che era quello della, del San Giuseppe in via San Vittore. E niente, poi ci sarebbe molto molto da raccontare dei giorni successivi, del corteo notturno il giorno dopo, del funerale di Dax, vabbè, ma qui starei, insomma, starei delle mezz'ore a raccontare. Ecco, questa è proprio la vicenda della nottata, e insomma, una vicenda abbastanza drammatica, e in qualche modo secondo me anche più grave delle vicende della Diaz di Bolzaneto, perché è assolutamente ingiustificabile, tant'è vero che poi la questura, molto in difficoltà nei giorni successivi, dovette inventarsi la tesi che noi volevamo portare via la salma di Dax. All'epoca il questore era Vincenzo Boncoraglio, e niente, questa è la descrizione di quella nottata. Per quanto riguarda la questione della memoria e del tramandare la memoria, è evidente che la vicenda di Dax è una vicenda che una parte della città ricorda, purtroppo una parte abbastanza minoritaria, cioè non è entrata potentemente come può essere la vicenda di Fausto Iaio o Piazza Fontana. E si avvicina al ventennale e secondo me due elementi da insomma battere il ferro quando è caldo sono: il primo, secondo me, trovare definitivamente un muro dove raccontare la vicenda di Dax e che quella vicenda rimanga lì scolpita su quel muro, senza che come ogni anno qualche, non saprei neanche come definire, lì qualche pavido, qualche anima nera dell'autorità decida di cancellarlo. E la seconda cosa è che secondo me bisognerebbe centrare in ogni modo di allargare la vicenda, nel senso di farla conoscere, e qui credo che lo strumento potrebbe essere la costruzione di un libro scritto da una persona, insomma un libro che finisca nelle librerie, scritto da un nome importante. Ci sono delle persone che si sono dimostrate sensibili comunque a queste vicende, potrebbe essere un Colaprico, ma anche mi viene in mente un bravissimo scrittore che anche ci ha aiutato in alcune cause, raccolte fonti, che è Giorgio Fontana, che scrive per Sellerio. Questi penso potrebbero essere due passaggi importanti, poi il resto vedremo. Ebbene, questo era un contributo di un compagno di Milano in Movimento, che ringraziamo. Ciao Teo, ti ringraziamo per il tuo contributo. Adesso, Norbi, io proverei a chiamare il nostro secondo ospite della serata per sentire il suo punto di vista rispetto a questa vicenda. Proviamo, lo stiamo chiamando. Vediamo un po'. Pronto? Ciao Andrea. Ciao. Sei su Radio ZM. Ciao. Buonasera, Andrea. Ciao a tutti. Ciao a tutte. Buonasera Andrea, come stai? Bene, bene, voi come state? Noi stiamo bene, ma molto sì. Bene, dai. Allora, come ti dicevo, questa sera è la puntata dedicata a Davide Cesare, al suo omicidio e ai fatti successivi al San Paolo. Sì. Tu un po' che... Cosa vorresti dirci un po' sulla vicenda? Quali sono un po' i tuoi ricordi, anche se hai qualcosa da raccontarci? Ma i ricordi sono terribili, nel senso che con Dax, con Davide eravamo oltre compagni e amici, perché io sono cresciuto a Opera, lui a Rozzano, come tutti sanno, e in quegli anni avevamo, oltre a frequentarci in ticinese, ci frequentavamo perché avevamo un collettivo a Opera che si chiamava Il Grido, e un collettivo a Rozzano che si chiamava Champagne e Molotov, con cui facevamo le cose assieme. E avevamo fatto tante cose in quegli anni assieme, proprio in periferia, dove cercavamo di, insomma, ci siamo sbattuti soprattutto per la questione Genova 2001, e quindi tutta la questione anche su Carlo Giuliani. Avevamo fatto murales e cose varie, avevamo contrastato più volte la Lega, e quindi l'arrivo di Bossi, Borghezzi, Rozzano, Opera, insomma, quindi eravamo in contatto su questioni proprio di militanza in periferia, sempre anche oltretutto vedendoci, ripeto, invece in quelli che erano i nostri collettivi milanesi. Io frequentavo il circolo anarchico di via Torricelli 19, Dax l'ho conosciuto proprio dietro il circolo anarchico a quella che era la sede della RAF e poi all'Orso, e quindi insomma ci frequentavamo e in più ci si divertiva assieme, nel senso si andava alle feste, si andava appunto a fare le serate ed era un amico. E quella sera oltretutto, purtroppo, il ricordo è ancora più brutto, perché ci siamo visti, e ci siamo visti proprio in ticinese davanti al Torricelli, che c'era un falafiera, un kebabaro, che adesso non c'è più, lì all'angolo proprio, non so neanche cosa ci sia adesso, forse niente, e ci siamo fatti due chiacchiere. Lui si era fatto da poco un tatuaggio che io non avevo ancora visto sul collo, e mi ha detto, vedi, insomma, era una stella rossa e nera, ci prendevamo in giro un po' fra anarchici, comunisti, cose così, e niente, poi io però ero stanco, me ne sono andato a casa. In quell'epoca abitavo a Locate, me ne sono andato a casa con un'altra compagna, con Valentina, e da lì a poco poi ci è arrivata la telefonata, ed è stato terribile, perché poi ci siamo mossi per andare all'ospedale. Noi non siamo, era già successo in realtà quando ci siamo mossi noi, quando abbiamo saputo noi tutto il delirio, le mazzate che è andato alla gente, il brega e cose varie. Ovviamente ci si frequentava tutti, ci si conosceva tutti, e noi non siamo, da una parte mi verrebbe da dire per fortuna, nel senso che almeno non ci siamo presi una marea di mazzate, dall'altra però la situazione era che non volevamo andare a sostenere i nostri amici, i nostri compagni, e quindi poi ci siamo visti subito dopo, la mattina dopo, e niente, in realtà il ricordo, poi non ho neanche tanto voglia di andare troppo nell'intimo, perché io l'ho subito molto, cioè diciamo che non sono stati anni semplici, perché si arrivava dalle occupazioni, le scuole superiori, poi Genova, mazzatona, arrestato tutti i miei amici e i miei compagni, Marina, Vince e tanti altri. Poi è successa sta roba, diciamo che è stata una bella mannaia sulla militanza, anche dal punto di vista, da una parte, di capire che non si scherzava un cazzo, e dall'altra che comunque da una parte la repressione poliziesca più i fasci, tutto, insomma, era una cosa da gestirsi. E un aneddoto che potrei dirvi, non perché voglio fomentare scazzi, però è una cosa a cui, insomma, io ci avevo sofferto tanto, non che nutrivo speranze su questo gruppo politico, è che noi il giorno dopo in università abbiamo fatto questa cosa qua, forse non si ricorda mai, ma perché insomma non è neanche così importante rispetto ad altre cose, però col collettivo che avevamo in statale, stiamo parlando appunto del 2003, già il 17 marzo, forse posso sbagliarmi di un giorno, il 18, non so se qualcuno che ascolta magari c'era in quei giorni può correggermi se sbaglio, magari sì, posso sbagliarmi di un giorno, abbiamo fatto un corteo interno alla statale, siamo entrati proprio dentro i corridoi, dentro i chiostri, e avevamo attacchinato ovviamente per quello che era successo, e mi ricordo che Lotta Comunista si era opposta al corteo e soprattutto si erano incazzati perché noi avevamo osato toccare la loro merdosa bacheca dove appendevano le cose, dove noi avevamo appeso i volantini e li hanno strappati. Potete immaginarvi lo scazzo che c'è stato per questa cosa. E niente, quindi diciamo, poi i ricordi più intimi preferirei non raccontarli in radio, perché comunque sono appunto ricordi di un ragazzo molto giovane che si sente distrutto da quello che deve vivere, per fino ad arrivare al funerale, insomma, che è stata una cosa devastante. Poi quello che ricordo invece politicamente è stato la mobilitazione, la solidarietà, il fatto che comunque non ci siamo arresi neanche dopo un evento così duro, oltretutto un evento duro che è arrivato dopo una serie di situazioni pesanti, perché comunque non era il primo accoltellamento, non era il primo compagno che veniva insomma ferito, in questo caso appunto purtroppo a morte, però come tutti sanno, insomma comunque come molti sanno, almeno quelli della mia generazione, erano anni in cui succedeva purtroppo spesso, sia che si davano ma anche che si prendevano, e non mi ricordo se era successo prima o dopo, forse prima. C'era stato un altro amico, Nicolò, che era stato accoltellato proprio nell'androne di casa, cioè che l'avevano seguito, non mi ricordo se prima o dopo, comunque in quegli anni sempre, che l'avevano proprio seguito fino a dentro casa, una volta che lui aveva chiuso la porta dell'androne del condominio era stato accoltellato. E quindi insomma diciamo che erano stati anni in cui era veramente pesante, e io credo che ci sia stato nei limiti però una reazione forte e importante da parte del movimento. Forse si poteva fare di più, però comunque si è fatto tutto quello che si poteva e si è tirato fuori tutte le energie possibili e immaginabili. Infatti è un grande rammarico poi che con questa situazione che stiamo vivendo non si possano fare le solite iniziative come si sono sempre fatte, anche se so che comunque ci saranno svariate cose in solidarietà e soprattutto in ricordo per non dimenticare quello che è successo, fra le quali anche questa chiacchierata che ci stiamo facendo, che però insomma rimane una chiacchierata in radio senza nulla togliere l'importanza di quello che state facendo, insomma. Quindi questo diciamo che è un po' il mio ricordo anche un po' personale di quello che è stato quel maledetto anno, insomma. Grazie mille Andrea per il tuo contributo. Noi ti volevamo chiedere anche se volevi spendere due parole sulla questione della memoria e di come questa cosa possa giovarci per il futuro, quindi come la memoria può essere considerata un'arma e magari certo. Anche consigliarci come riuscire a far sì che un evento come questo, che diciamo può essere ancora considerato di nicchia, diventi patrimonio comune della città, per cercare di diciamo far sì che non sia un episodio che rimane così nel vuoto della solitudine che caratterizza questa città. Ma io credo, sì, insomma, a parte che io non ho niente da insegnare a nessuno, nel senso soprattutto quando si parla di queste cose, perché siamo proprio completamente alla pari quando si ragiona di queste tematiche. Però quello che io penso, e credo che siamo anche d'accordo, quantomeno io e te Orso, è quello che la memoria è proprio un'arma, non è commemorazione, cioè non deve essere un ricordo fine a se stesso. Cioè io credo che ci sia una differenza sostanziale fra memoria e ricordo. Il ricordo c'è, è importante, tante a volte anche quello intimo e personale, che è quello che non mi sento di raccontare, per esempio, che potrei raccontare a una cena con voi a Zama. Invece la memoria, cioè ricordare un avvenimento per non farlo cadere nell'oblio della storia, per far sì che quello sia invece per creare degli anticorpi in una società, in una comunità, che non ricordi solamente il nostro amico e compagno Dax, Davide, ma che sia proprio invece un qualcosa che ci serva per raccontare la violenza del fascismo, il fatto che esiste, non se ne sono mai andati e bisogna combatterli senza assolutamente fare mai un passo indietro. Scusate l'uscita un po' retorica, però è la verità, cioè assolutamente così, dobbiamo stare attenti e questo si deve fare, e secondo me questa è la cosa bella. Io mi ricordo ancora l'anno scorso e anche 2 anni fa, che ho notato proprio una differenza nel corteo del 16 marzo, nel senso che noi, per scherzare un po', scherzare insomma, mettiamo fra virgolette questa parola, però quando incontro i vecchi compagni di Rozzano, che sai, non li vedo più, io vivo in Liguria, magari loro poi non sono a vivere da altre parti, il 16 marzo era un po' come una riunione di famiglia, no? Per noi che ci siamo vissuti quella cosa e che eravamo attivi in quegli anni proprio. E la cosa che mi ha colpito, ed era bello ed è bellissimo il fatto di ritrovarsi il 16 marzo tutti gli anni, abbracciarci e cose varie, però è stato bello notare come c'è stato proprio uno scambio generazionale, cioè un cambio totale, cioè io negli ultimi anni la maggior parte delle persone che c'erano al corteo non le conoscevo, e questo per, e soprattutto erano molto giovani, e questo per me è proprio la grande vittoria di quello che stiamo dicendo sulla questione della memoria. E quindi credo che una cosa importante per la città di Milano, e non solo soltanto di Milano, è quello che la memoria non sia soltanto un ricordo, ma che si sedimenti come anticorpi e come appunto possibilità di continuare a raccontare una storia per migliorare l'avvenire, il futuro. E questo secondo me è la cosa importante. Quello che si può fare è sicuramente tantissime cose, molte magari che io neanche penso e che penseranno le nuove generazioni, però continuare a parlare nelle scuole, continuare a produrre articoli, serate, cortei, presidi, e poi quando si può ricordare quell'evento anche in situazioni che magari non sono totalmente dedicate a quella notte nera. Mi è capitato da poco di fare un'intervista con un bravissimo giornalista di internazionale che si chiama Adil Mauro, e mi è proprio venuto spontaneo, quando si parlava del il lavoro infame dei giornalisti, di fare come, non di tutti i giornalisti, lui è un bravissimo giornalista e lui era d'accordo con me oltretutto, di come i giornalisti in quella sera, cioè del giorno dopo e nei giorni seguenti, si sono comportati nel raccontare la notizia, depoliticizzandola, rendendola neutra, e invece come era importante insistere e lavorare per far sì che si parlasse di controinformazione su quello che realmente era successo. Quindi scusate se sono stato un po' prolisso in questa risposta, ma era per chiarire un pochino la differenza anche che per me passa fra ricordo e memoria. No, no, sei stato perfetto ed esaustivo, come ci hai abituato ormai quando ti contattiamo e ti disturbiamo. E noi ti ringraziamo per il contributo che ci hai dato, e niente, ti gireremo il podcast poi quando abbiamo editato la puntata. Ringraziamo Andrea Staid per il suo contributo, lo salutiamo e così lo lasciamo libero di continuare la sua vita senza essere tediato da noi. È il momento di dar da mangiare al cane e al gatto, quindi vado a riempire le ciotole. Allora, buon appetito da parte nostra, il cane e il gatto, e noi ci ascoltiamo una canzoncina. Grazie mille Andrea. Grazie buona a serata. Voi, buona serata. Ciao. E noi ci ascoltiamo, dai, Mestiere di merda di Aban, direi che è perfetto. Perché no, dai, okay. ci piace. Oggi sto sveglio presto prima del canto del gallo. Voglio guardare un altro Giuda mentre cade in fallo. La testa piena con la rabbia che mi porta al largo, in mezzo a un mare di domande che non mi dà scampo. Odio il giornale ma non posso farne a meno. Oggi il titolo mi chioda gli occhi su quello che vedo. Testata riporta sull'argomento principale. Stefano Cucchi viene ammazzato come un cane. 20 grammi per morire senza andare in ospedale. Dentro un carcere normale, manco un carcere speciale. Con i segni sopra il corpo di un pestaggio militare, senza una speranza a fianco, una madre da abbracciare, senza alcuna spiegazione ufficiale, nessun comunicato, solo silenzio e bugie da parte dello Stato. Dove è la bella Italia? Dove è la sporca Italia? Lo sbirro ti assassina e sputa sopra la tua barra. Non ci credere quando ti dicono che è tutto a posto. Non c'è niente di a posto, solo tutto nascosto. Non mi chiedere fiducia perché chi l'ha fatto è morto. È per questo che non stringo la mano ad un poliziotto. Non ci credere quando ti dicono va tutto bene, che la colpa non è loro, che fanno il loro dovere. Chi sbaglia non paga mai, se giura per il mestiere di merda, carabiniere. Fido di chi non condanna l'arma per rispetto, dei colpevoli assolti dopo l'ennesimo processo. Dottore, caro, capo della polizia. Viene assolto col collega dal massacro della DIA. Ricordi gelano il sangue come fosse sotto zero. Mentre ripercorro rapido le immagini all'indietro, rivedo le loro facce divise sporche di sangue. Le tracce di una violenza gratuita come una strage. E dopo Carlo, Aldo, Federico e Gabbo, ammazzati come cani dalla polizia di Stato. Nessuno ha pagato, tutto rimane com'era. Per questo infame, manco un solo giorno di galera. Oggi Stefano va via, chiuso in una busta nera, senza avere manco il tempo per un'ultima preghiera. E non importa la tua vita, non importano i tuoi anni. La morte pesa solamente 20 grammi. Tu non ci credere quando ti dicono che è tutto a posto. Non c'è niente di a posto, solo tutto nascosto. Non mi chiedere fiducia perché chi l'ha fatto è morto. È per questo che non stringo la mano ad un poliziotto. Non ci credere quando ti dicono che va tutto bene, che la colpa non è loro, che fanno il loro dovere. Chi sbaglia non paga mai, se giura per il mestiere. Mestiere di merda, carabiniere. Questo era Aban con Mestiere di merda. Tra l'altro faccio uno spoiler per chi ci sta ascoltando: il 16 marzo uscirà un nuovo singolo di Aban, ovviamente dedicato a Dax, quindi seguite le sue pagine Spotify, YouTube, cose qua, Facebook, che ci sarà una bella traccia nuova. Stay connessi. Bene, andiamo avanti, andiamo a concludere questa puntata. Adesso il compagno Norberto ci leggerà un testo che era uscito per il 12° anniversario della morte di Dax, e fu scritto su Mim, e adesso Darby ce lo legge. Siamo a casa, a cena. Arriva una telefonata da via Brioschi. Hanno accoltellato un compagno. Stai calmo. Al telefono diciamo stai calmo, faccia avere notizie. Fine della telefonata. Un po' di gelo. Che si fa? Andare non ha senso, ormai lì non c'è più nulla da fare, solo polizia. Ma chi ha ricevuto la telefonata non sta nella pelle, anche se non dice nulla. Ok, andiamo. Due macchine. Arriviamo in via Brioschi davanti al Tipoda. Un po' di compagni, c'è ancora una pozza di sangue per terra. Mi avvicino a guardarla e capisco come finirà, non solo dalla quantità di sangue, tantissimo, veramente tanto, ma perché ci sono delle parti più dense. Non riesco a pensare ad altro. Carne, parte del corpo, l'hanno sventrato. Scambiamo due parole con chi era lì prima di noi, quelle necessarie a capire l'accaduto. Dax, Ale e Fabietto sono in ospedale. Nella mia testa si apre il file delle immagini. Chi è Dax? Non riesco a collegare nome o faccia. O forse sì, ho capito. Ambulanze ancora in zona, sbirri anche. Passa il P. Tanti anni che non ci si vede. Ai tempi degli studenti per un po' girava con noi. Nazionale di football americano. Era una garanzia in qualunque momento di tensione. Scambio due parole. Vive là, ha visto la fine della scena, ha visto un particolare, ha visto gettare le lame, ma non ci sono già più, le avranno prese gli sbirri. Passa qualche minuto, i compagni dicono che vogliono andare al San Paolo. Andiamo anche noi, passiamo a prendere la Manu che abita qui dietro, quindi una macchina un pelo avanti, l'altra a pochi minuti di distanza. Siamo quasi arrivati, squilla il mio telefono, ci stanno caricando dentro l'ospedale, correte. Come cazzo è possibile? Non ci posso credere. Arriviamo. Matteo parcheggia tipo film poliziesco e non riesco a non sorridere a questo pensiero. Circa 50 metri tra noi e l'ingresso del viale del pronto soccorso si vedono persone, o meglio, non persone, carabinieri. Si muovono, qualcuno corre, c'è agitazione, si sentono urla. Alcune sono degli sbirri, altro non è chiaro. Ci avviciniamo a passo spedito. Fermi, dove cazzo andate? Non facciamo in tempo a rispondere. Vedo sei di mezzo a 3-4 sbirri che lo manganellano. Con la coda dell'occhio vedo Matteo per terra, i carabinieri che lo prendono a calci. Io sono ancora in piedi, davanti a me un canazzo che ha tunnello, che spinge e grida. Ho un secondo di indecisione, posso fare in tempo ad avventarmi su uno dei carabinieri che prendono a calci Matteo. Un paio di colpi, forse se mi muovo veloce riesco a darli. Altrettanto veloce il pensiero. A che pro? Matteo è preso, ne ha addosso 5 e sta prendendo un sacco di botte. Said è preso, uguale. Io sono preso. Nei decimi di secondo che penso tutto ciò, la spinta da davanti mi arriva non più sul petto, ma in faccia. Da dietro un braccio mi gira attorno al collo e inizia a stringere. Altre due mani mi afferrano un braccio e una gamba. Mi afferrano un braccio e una gamba continua a cercare di farmi lo sgambetto. Non devo finire per terra. Se finisco per terra, ciao, è la fine. Non devo agitarmi, più mi muovo e più ne prendo. Devo tenere le braccia lungo il corpo. Più sono adese al corpo e meno penseranno che mi sto muovendo o che voglio colpirli. Che poi cazzo se vorrei colpirli. Altre poche frazioni di secondo in cui scorrono questi pensieri, nel frattempo sento un colpo sulla gamba, da dietro, volto la testa. Un carabiniere piccolo, biondino, la sua faccia è lo stereotipo dell'imbarellato, se non è sotto effetto di cocaina lui, allora non lo è mai stato nessuno. Ha in mano un manganello rigido di quelli estraibili in ferro, mi guarda con un ghigno del cazzo e continua a ripetere, chi è stato? Chi è stato? Mentre nasconde malamente l'estraibile dietro la schiena. Pensa a sto poveretto, si diverte, pensa di essere spiritoso o di dimostrare furbizia o di essere uno grosso che incute paura. Mamma mia, è allucinante, devo sforzarmi per non ridergli in faccia. Non c'è niente da ridere, ma non posso evitare di pensarlo. Vengo sbattuto contro una volante e tenuto fermo. Dopo un attimo viene sbattuto a fianco a me Matteo. Ci ammanettano, ci mettono in macchina, una pantera degli sbirri, fuori dall'ospedale e ci mollano lì. Matteo ha un taglio in testa, ma anche male da qualche altra parte che non ricordo, forse alla schiena. Io solo alla gamba, non mi sono fatto un cazzo, dico a Matteo di non chiudere gli occhi. Le prime frasi veloci, visto che siamo da soli, sono convinto che ci porteranno via, per cui velocemente ci accordiamo, nomina l'avvocato. Eravamo a cena da me, chi ha telefonato non lo sappiamo e via di questo passo. Lo ammetto, sono preoccupato da due cose, penso che prenderemo tante botte e c'è poco da fare, ho paura per Matteo, saprà come comportarsi, cosa dire, cosa no, come muoversi. Matteo come se lo sentisse, da ammanettato con un'acrobazia riesce a tirar fuori il cellulare e a telefonare, io mi chino su di lui e parlo, lucido e razionale, e lui, freddo e impassibile, mi sgancia pure la battuta sarcastica, guarda che me la so cavare. Poi la macchina verrà spostata dentro nel vialetto, sbirri che ci passano a fianco, il bagagliaio di una pantera che si apre e viene messa dentro una mazza da baseball. Un canazzo che dice col cazzo che vado lì di nuovo se non ci fanno caricare ste merde, porco dio. E mentre finisce la frase, un altro che prende la rincorsa al grido di ammazziamoli sti comunisti di merda. Vedo gente sotto i portoni dei palazzi che guarda, poi corrono anche loro, scappano, alcuni poliziotti li inseguono col manganello alzato. Dentro non sento niente, alla gamba non sento niente, scorre adrenalina purissima. Me la ricordo sta sensazione, come quando ci spararono a Bergamo anni fa, per ora è tutta azione, anche dentro la macchina, ammanettati. Tutto ancora azione, furore, sensi tesi e allerta, occhi che girano a 360 gradi e pensieri velocissimi perché devono essere così. Poi veniamo tirati fuori dalla macchina, tolte le manette, il tempo rallenta, i documenti, la Digos che passa vicino abbassa lo sguardo, lo sanno anche loro la merda che hanno fatto e la testa non gli rimane dritta, un poliziotto che piagnucola e no, basta, adesso non darete la colpa a noi, si rivolge un dirigente e mi sembrano l'asilo, la maestra col bimbo, che schifo. Il tempo rallenta, i compagni ci guardano dietro il cancello, non vedo Said, l'hanno preso, ma dov'è? E la Manu? È arrivata un po' di gente, attraversiamo il cancello e siamo in mezzo ai fratelli. Ora la parte più difficile, mantenersi lucido, scacciare le lacrime, fare quello che c'è da fare. Ora la parte più difficile, mantenersi lucido, lucido cazzo, lucido, parlare, dire le cose che vanno dette, non tutto, le cose essenziali, lucido, scacciare le lacrime. E niente, ringraziamo Franz per il contributo e ringraziamo anche Norberto per aver letto questo testo. E parlando della notte nera di Milano, è impossibile non parlare della campagna 130.000 e di tutto quello che è stato e che è oggi. La campagna 130.000 è una campagna che fu organizzata in seguito alle condanne che un compagno Brega ricevette in seguito ai pestaggi di quella notte. Dopo la mattanza che ci fu, dopo le aggressioni, i pestaggi, Brega fu accusato di essere responsabile di quei danneggiamenti e di un'aggressione a un poliziotto e fu condannato a svariati mesi, anni e a una multa di 130.000 euro che come potete benissimo immaginare è ancora pende sulla testa di Brega. E per tanti anni questa campagna 130.000 ha cercato di sostenere il compagno in difficoltà cercando di aiutare nella spesa di questa spesa e come immaginate adesso che attraverso benefit degli spazi, concerti, cene, iniziative di vario genere, come potete immaginare adesso con la questione del Covid la possibilità di organizzare iniziative di questo tipo è ridotta veramente all'osso, quindi quello che facciamo noi è invitare a cercare di seguire la campagna 130.000 anche sul sito dell'associazione DAX, per cercare in qualche maniera di aiutare un compagno in difficoltà e per cercare di far vedere come tutti e tutte sosteniamo quello che è avvenuto quella notte, come i compagni si sono difesi dalla polizia. Io direi, Norbi, che potrebbe essere tutto. Sì, sono d'accordo. Invitiamo tutti e tutte, nonostante il periodo difficile, a trovare un momento per passare a salutare DAX il 16 marzo nei modi, luoghi e forme che ognuno riterrà opportuni, e vi faremo presto avere questo il podcast di questa puntata, e direi basta. Che dici, Norbi? Vuoi aggiungere qualcosa? No, non mi sento di aggiungere nulla. Per me è tutto. Adesso ci ascoltiamo Antifa di Kuba Cabal. Vi salutiamo tutti, tutte e tutto, e per appunto vi invitiamo a rimanere informati sulle iniziative che andranno a ricordare DAX anche quest'anno, anche nella brutta situazione in cui ci troviamo. E un saluto a tutti e tutte, a presto. A presto. Patti chiari, miccia corta, governo porta a porta, come la Folletto, che ha fumato il cioccolato, che ha rubato nel cassetto, lo zecchino oh no, rosicchiate il contorno, venerate il porco come un santo volto, pellegrini digitali extraterrestri dentro casa, stupidi stupiti da mille colori, alla ricerca degli antichi sapori, in tempi non sospetti, tra pizze e merletti, giudici e confetti, il gioco è finito, le porto i miei sospetti, all'ombra della nulla tenenza, la paura sale con violenza, precari del mondo uniti per l'indipendenza, monopolio di un manipolo che ci divide nelle nostre vite, uomini di storie ardite, come distruttori con l'amore dei cuori, per un giorno di gioia cento di dolori, allerta allerta, status killer, allarme allarme, status killer.